ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Trump contro Biden, il dibattito più caotico della storia. Ma chi ha vinto? Intanto Mike Pompeo è a Roma. Per fare che cosa? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Tonight we got to see white guys brutally attack each other for 2 hours, so it was a pretty good preview of tomorrow night's debate. I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666, ve lo ricordo, è il numero da comporre per SMS, WhatsApp, domande e commenti. E in particolare un giudizio, un commento molto preciso, quello che vi chiedo in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Chi ha vinto nel dibattito televisivo di ieri, il primo dei tre previsti tra Donald Trump e Joe Biden? Un dibattito che secondo gli analisti è stato forse il più caotico della storia dei dibattiti presidenziali televisivi. I due non si sono scambiati certo particolari cortesie. Caotico, dicevamo, ha messo anche forse in crisi il moderatore Chris Wallace, un anchorman di lungo corso, particolarmente avvezzo alle cronache politiche della Fox News, ma inviso sia ai democratici che ai repubblicani. In realtà anche Wallace è sostanzialmente evaporato di fronte alle bordate che i due si sono scambiati. Per commentare e dire la vostra su chi ha primeggiato in questi 96 minuti di fuoco, non c'è soltanto il 349-238-6666, ma anche i social, quindi vi leggo sulla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano e vi leggo su Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Detto ciò, prima di entrare nel vivo della puntata, andiamo a sfogliare, come sempre, i nostri dossier. Il primo ci porta immediatamente ad Ankara, perché il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato una lettera ai leader dell'Unione Europea proprio il giorno prima del Consiglio Europeo, che discuterà fra le altre cose delle tensioni nel Mediterraneo orientale. Scrive testualmente Erdogan: «Vorrei sottolineare ancora una volta che siamo pronti a un dialogo con la Grecia senza precondizioni». Il messaggio che è stato inviato ai responsabili delle varie istituzioni di Bruxelles, ma anche ai capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, a eccezione di Grecia e Cipro, il leader di Ankara, leggo testualmente l'Ansa battuta da poco, sottolinea l'importanza delle relazioni Unione Europea-Turchia e i progressi fatti al riguardo sotto i suoi governi. Naturalmente Erdogan teme particolarmente quelle che potrebbe essere la mannaia delle sanzioni che potrebbe abbattersi appunto sul suo governo. Fa sorridere, se volete, un po' la chiosa di questa sua lettera, nella quale sottolinea l'importanza delle relazioni Unione Europea-Turchia e i progressi fatti a riguardo, ma onestamente, senza tema di smentita, ci sembra che abbia negli ultimi mesi messo veramente a dura prova le relazioni tra Ankara e Bruxelles, e anzi averle stiracchiate parecchio, qualcuno dice troppo. Sono già arrivati i primi messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto. Non abbiamo certo pretese di statistica, però sarà interessante valutare il pubblico di Nessun Luogo Lontano come ha vissuto quel dibattito. Peraltro vorrei anche sapere chi di voi è stato in piedi per quei 96 minuti questa notte, compito piuttosto arduo, devo ammetterlo, e chi invece si sta affidando al resoconto di seconda mano dei network, magari italiani o internazionali. Secondo dossier internazionale, ancora una volta, relazioni tra paesi europei e extraeuropei. Il presidente francese Emmanuel Macron ha poche ore fa condannato le dichiarazioni della Turchia a sostegno dell'Azerbaigian. Le ha definite sconsiderate e pericolose. Proprio ieri Erdogan, e ve ne davamo conto nella puntata di ieri, aveva detto che Ankara era pronta ad aiutare Baku a riprendersi in Nagorno-Karabakh e a difendere i propri diritti e interessi in base al diritto internazionale. Emmanuel Macron non l'ha presa benissimo. Sapete che la Francia, all'Eliseo in particolare, molto spesso, come dire, mette la quinta sui grandi dossier internazionali, quasi non so se a voler guidare un'eventuale cordata europea, a voler primeggiare all'interno di una certa opacità dell'Unione Europea sui grandi dossier internazionali. Intanto le notizie dal fronte del Nagorno-Karabakh sono drammatiche, si continua a combattere, fonti in loco ci dicono attenzione, questa non sono più scaramucce, non sono più scampoli di conflitto, questa è una guerra a tutti gli effetti ormai tra i due paesi. Gli elisoccorsi continuano a fare la spola tra Yerevan e la linea del fronte, secondo le dichiarazioni del Ministero della Difesa azero sono almeno 2300 i soldati armeni uccisi o feriti negli scontri, non arrivano conferme, non arrivano smentite, c'è una certa ritrosia da parte armena nel prodursi in dichiarazioni anche con la stampa, ma tutte le cifre che circolano, ve lo garantisco, vanno assolutamente prese con mille molle. E poi Hong Kong, perché il tribunale ha concesso all'attivista Joshua Wong, uno dei volti più noti degli movimenti popolari di Hong Kong fin dalla rivoluzione degli ombrelli 2014, il rilascio temporaneo su cauzione. Lo ricorderete, il 23enne era stato incarcerato con l'accusa di riunione non autorizzata e violazione del divieto di manifestare. Wong è apparso oggi davanti alla corte insieme a un attivista veterano di 74 anni, Ku Jie-yu, che ha ugualmente ottenuto il rilascio temporaneo. Alla domanda se avesse capito l'accusa contro di lui, il 74enne Ku ha detto: le manifestazioni e le assemblee non hanno bisogno del permesso del Partito Comunista Cinese. I due casi, lo ricordiamo, verranno presi nuovamente in considerazione il prossimo 18 dicembre, per cui la avventura, o meglio disavventura giudiziaria dei due attivisti che sono separati da alcune generazioni di hongkongesi riprenderanno appunto il prossimo 18 dicembre. E poi ancora in Bielorussia, perché abbiamo smesso di raccontarla, almeno negli approfondimenti più corposi di Nessun Luogo è Lontano, ma la situazione è in continua evoluzione. Hanno preso posizione anche il Canada e il Regno Unito, imponendo sanzioni sui massimi leader bielorussi. E oltre a Lukashenko vi sarebbe il figlio del presidente e sei alti funzionari del governo di Minsk. Dominic Raab, che è il ministro degli esteri britannico, ha detto che le sanzioni sono essenziali per fare pressioni sui responsabili della repressione. E a proposito di Emmanuel Macron, molto molto attivo sui dossier esteri, dopo il presidente Macron, oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che incontrerà anch'ella la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tsikhanouskaya. Questi i nostri dossier internazionali. Prima di dare voce ai vostri commenti, al vostro giudizio sull'incredibile nottata elettorale televisiva di ieri, andiamo a Cleveland, Ohio, lo dicevo, forse per il più caotico dibattito televisivo che le presidenziali statunitensi abbiano mai avuto. I'm Chris Wallace of Fox News and I welcome you to the first of the 2020 presidential debate. L'Obamacare non andava bene. We made it better. Abbiamo fatto di meglio. He has no plan for healthcare. Non ha un piano per la sanità. He has none, like almost come per la maggior parte delle altre cose di cui parla. Between 750 and 1,000 people there are dying. Stanno morendo tra le 750 e le 1,000 persone. Non è come dice lui. Is what it is. Così stanno le cose, perché tu sei quello che sei. That's why it is. È così. The president has Il presidente no non plan. Ha alcun piano. Far fewer people are dying. Abbiamo avuto pochi morti. Abbiamo fatto un buon lavoro. The only thing I haven't done a good job, e se dicono il contrario, è un'informazione falsa. No matter what you say to them, they give non ha importanza quello che dici. È falso. We have tremendous Ai nostri comizi, è vero, eravamo in tanti. And Joe, does the circles Joe invece aveva quattro gatti. Il fatto è che qualsiasi cosa dica è una bugia. Tutti sanno che è un bugiardo. Senti, è così e punto. Così in 90 secondi Valentina e Valeria, Valentina Tenullo e Valeria Bernardi hanno provato a ricapitolare quei 96 lunghi minuti invece che hanno tenuto incollati decine e decine di milioni di telespettatori ieri negli Stati Uniti, manco fosse il Super Bowl. In effetti l'occasione era ghiotta, sei temi toccati, ve li abbiamo ricapitolati proprio nella puntata di ieri, ci torneremo. Molte le interruzioni, molti gli improperi, quasi il turpiloquio a un certo punto. 56 le interruzioni di Donald Trump secondo i calcoli che avevamo fatto, ma poi secondo la CBS Trump avrebbe interrotto Biden 73 volte. Toni accesi, imbarazzi, secondo alcuni analisti una rissa, secondo altri uno spettacolo indecoroso, secondo altri ancora forse il momento più basso nel dibattito democratico statunitense. Ricapitolo, ma senza pretese di essere esaustivo, alcuni tra i momenti topici e forse più importanti: estremismo e questione razziale. Trump non ha preso le distanze dalle frange più estremiste della destra, tra cui i suprematisti bianchi, si è rivolto in particolare ai cosiddetti Proud Boys, peraltro una nota marca di abbigliamento, ha sostanzialmente ritirato le magliette che questa frangia utilizza per identificarsi, ha detto state fermi e state pronti, però poi ha ribattuto, vi dico una cosa, qualcuno deve fare qualcosa contro Antifa ed estrema sinistra. Le tante interruzioni di Trump, che evidentemente era una strategia minuziosamente preparata, hanno stizzito evidentemente Biden, che non è sembrato molto in grado di rispondere colpo su colpo, anzi a un certo punto gli ha dato del pagliaccio, poi scusandosi. Poi vaccino e gestione della pandemia. Trump ha detto di aver evitato che la pandemia da coronavirus causasse danni molto molto peggiori, ha sfidato Biden, al posto mio sarebbe se tu fossi stato al posto mio sarebbe stato un vero e proprio disastro, ha ironizzato sull'utilizzo della mascherina, ha detto che Biden anche a distanza di 60 metri porterebbe delle mascherine gigantesche, e Biden da parte sua su questo tema non è riuscito a affondare il colpo. Le polemiche sul voto, che tanto hanno fatto saltare sulla sedia tanti analisti internazionali, si è più volte rifiutato di dire negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, che riconoscerà la validità del voto in caso di sconfitta. Beh, ieri sera ha rincarato la dose, perché sostanzialmente ha detto ai suoi elettori andate nei seggi e prestate molta attenzione a quello che accadrà. E infine altro dossier molto molto caldo, quello del cambiamento climatico. Anche questa volta Trump si è rifiutato di riconoscere che il cambiamento climatico è causato dall'uomo. Ancora una volta dico la mia, ma molto brevemente poi mi taccio e avrò un ospite che è molto più attenta e saprà certamente circoscrivere l'analisi. Un Trump trasbordante che ancora una volta ha sovvertito completamente la grammatica politica e del dibattito presidenziale, però un Biden che è sembrato, a mio modestissimo parere, in serissima difficoltà. Chi ha vinto? Beh, secondo la CNN, per 6 elettori su 10 ha vinto Joe Biden. Secondo un altro sondaggio invece condotto da CBS, Biden si è aggiudicato il primo dibattito con queste percentuali: 48%, secondo il 48% degli spettatori ha vinto il candidato democratico, per il 41% ha vinto Donald Trump, il 10% ritiene sia stato un pareggio. Abbastanza unanimi i giudizi sullo spettacolo che è stato per molti, lo ripeto, indecoroso. Cerchiamo di capire allora meglio che cosa è accaduto in quei feroci, per molti e sicuramente caldissimi, 96 minuti. Lo facciamo con Marta Dassù, direttore di Aspenia, già vice ministro agli esteri. Direttore Dassù, buongiorno, ben ritrovata qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, direttore, innanzitutto la domanda chiave evidentemente: chi ha vinto ieri sera e perché? Ma mi sembra più facile dire chi ha perso. Secondo me ha perso la presidenza come istituzione, come pezzo essenziale della democrazia americana. È stato effettivamente, come lei diceva, uno spettacolo al tempo stesso violento e deprimente. In termini relativi, tuttavia, io penso che abbia perso Trump, seppure di poco, le citava giustamente i sondaggi di CBS, 48% sì. Biden, 41% Trump, ma penso che abbia perso perché in realtà chi doveva vincere è Trump, era l'occasione di Trump per invertire un trend che per il momento lo vede indietro sia nel voto nazionale che in difficoltà in molti degli stati che faranno la differenza per i collegi elettorali. Quindi Trump ha perso un'occasione, visto che in teoria è molto più bravo di Biden in questo genere di dibattiti. E questo non c'è dubbio, l'abbiamo spesso ribadito, ha delle doti da showman che Biden non viene nemmeno col binocolo. Ripeto, ieri è apparso sinceramente in difficoltà proprio nella, come dire, nel duettare, pur senza usare il fioretto, ieri si sono usate delle gran sciabolate. Il peccato, e concordo con lei, direttore, lo ricordo, Marta Dassù, esperta in particolare di relazioni transatlantiche, lo spettacolo per la democrazia e anche l'istituzione presidenziale non è stato particolarmente edificante. Vengo subito agli ascoltatori, il 349-238-6666. Qualcuno chiede quanto possono incidere i dibattiti in una campagna così polarizzata, e questa è una domanda molto molto interessante. Qualcun altro scrive: secondo me ha vinto assolutamente Biden. E poi ancora, sono tanti davvero i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Vengo a Sam che dice: ero imbarazzato per entrambi, in particolare Trump su clima e sui suprematisti bianchi, direi assolutamente vergognoso. Qualcuno dice: è stata usata una dialettica da bar, come si può parlare di vittoria quando chi aspira a diventare presidente, l'attuale presidente, usano questo tipo di dialettica. Direttore Dassù, quanto possono muovere i dibattiti televisivi non soltanto dei due candidati alla presidenza, ma anche dei candidati alla vicepresidenza? Perché poi in tutto ciò ci stiamo scordando, come dire, quelli che sono i pesi medi della politica americana, che possono muovere, però, no? Ma certamente i dibattiti non muovono in genere granché. Negli ultimi anni non è stato così, ci sono state nelle eccezioni delle eccezioni nella storia americana, ma in genere non sono così decisivi. È una questione anche di aspettative. Qua in fondo Trump aveva creato l'aspettativa che Biden, così vecchio, così appannato, non fosse proprio in grado di discutere. Da questo punto di vista Biden si è mostrato in grado di reggere questa allucinante discussione a cui abbiamo assistito. Sarà forse più interessante per le questioni specifiche ascoltare Mike Pence e Kamala Harris, in particolare Kamala Harris, senatrice della California, perché tutto sommato è il presidente in pectore. Sicuramente se Biden vincesse si tratterebbe di un mandato soltanto e forse neanche di un mandato intero, quindi in realtà ascoltiamo quella che potrebbe diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. Sì, allora, già che ha citato, è entrata nel vivo con questa figura che potrebbe davvero sparigliare in qualche modo le carte nella politica statunitense, sempre particolarmente legata a figure maschili, ancora non è riuscita a produrre quello che è uno smarcamento da una cultura evidentemente maschilista. Sentiamo in un minuto chi è Kamala Harris. Girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bused to school every day, and that little girl was me. Prima donna e prima persona di colore a diventare procuratore distrettuale di San Francisco e procuratore generale della California, prima senatrice di colore della California, prima afroasiatica a ricevere la nomina a un ruolo federale, Kamala Harris colleziona un primato dietro l'altro e, citando le sue parole, è fiera di essere la prima, ma vuole assicurarsi di non essere l'ultima. Membro di 4 commissioni del Senato, è diventata celebre per la sua risolutezza. Tra i principali punti della sua agenda politica figurano la riforma del sistema penale e una nuova legislazione che miri a una maggiore giustizia razziale. Kamala Harris non è però immune alle critiche, specialmente da frange più progressiste. L'hanno soprannominata Kamala il poliziotto e contestano il suo parere contrario a indagini indipendenti sui casi di sparatorie della polizia, come l'impegno ad aumentare le cauzioni per alcuni reati minori. Dopo le critiche rivolte a Trump per il suo dissenso verso le manifestazioni pacifiche di Washington, è stata rinominata dal presidente Kamala l'ipocrita. Accusata più volte di strizzare l'occhiolino alla sinistra radicale, rimane tra le più note donne di colore nella politica americana, apprezzata sia dai moderati che dai liberali. Riuscirà la Harris a capitalizzare abbastanza voti per la causa democratica? E soprattutto riuscirà, quando si troverà faccia a faccia con Mike Pence, ex governatore dell'Indiana, esponente dell'America più conservatrice e religiosa, a ricondurre il dibattito presidenziale ai temi, ai contenuti. A me ha stupito in maniera molto, molto triste, lo devo confessare, l'allontanarsi proprio dai contenuti, il dare anche poche cifre, molto spesso errate, la mancanza anche di un fact-checking che sarebbe stato di grande aiuto forse per gli elettori americani. 349-238-6666, fate attenzione, scrive un ascoltatore, conta il giudizio degli elettori, non quello dei giornalisti. Ricordate gli errori della stampa di 4 anni fa, anche noi abbiamo il diritto a un'informazione non tifosa, e sono perfettamente d'accordo, gentile ascoltatore, l'abbiamo ribadito più volte, i sondaggi hanno consegnato nel 2016 un paradosso incredibile per cui la Clinton era data assolutamente per vincente e poi così non è stato. Quello spettro, e parlo dal punto di vista dei democratici, potrebbe assolutamente ripresentarsi. Fatemi tornare da Marta Dassù, direttore di Aspenia, esperta di relazioni transatlantiche, ha già ricoperto vari incarichi anche come viceministro degli esteri. Ecco, in queste ore Mike Pompeo è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino, ha visto esponenti del Vaticano, ha visto il premier Conte, ha visto il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Sul piatto c'è soprattutto rapporti con la Cina e 5G. Che significato ha questa visita, direttore? Ma questa visita segue alla visita dell'ottobre 2019, quindi una specie di bilancio di questo tentativo degli Stati Uniti di ricondurre l'Italia alle motivazioni strategiche della relazione con la Cina. Sul piatto, come lei ricordava, c'è la questione del 5G, e cioè della nuova tecnologia di rete mobile, che l'Italia per un po' di tempo ha visto come una questione puramente economica. Huawei, l'operatore cinese, offre in teoria delle soluzioni più rapide e sì, più convenienti, ma in realtà è una fondamentale questione strategica che attiene alla sicurezza nazionale, alla sicurezza della NATO. Direi che l'Italia ha chiuso con questa fase di ingenuità, sta mettendo a punto delle soluzioni che possano, attraverso il famoso meccanismo della Golden Power e la definizione del perimetro della cyber security, della sicurezza cyber, tenta appunto di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Poi c'è la questione Libia, che naturalmente per l'Italia è sempre un teatro di prima grandezza, e per noi sulla Libia l'appoggio americano è assolutamente essenziale. Assolutamente, anche perché abbiamo spesso ribadito proprio da questi microfoni come in un intervento statunitense sostanzialmente metterebbe la parola fine a tante dinamiche che sono inquinate da attori esterni che di fronte al peso statunitense probabilmente non potrebbero far altro che ritirarsi in buon ordine, forse anche in punta di piedi. Adesso però le faccio togliere i panni, la giacca del direttore Marta Dassù, le faccio rimettere quelli del viceministro, del sottosegretario agli esteri. Come si vive, come può vivere la politica italiana la visita di un segretario di Stato come Mike Pompeo, che teoricamente tra un mese potrebbe scadere, potrebbe non rappresentare in più la stessa anima politica del governo statunitense? Ha ancora senso una visita di questo tipo? Direi che dobbiamo ricordare il lato vaticano, perché in effetti Mike Pompeo era soprattutto interessato a partecipare a questo convegno organizzato dall'ambasciata americana alla Santa Sede sulla libertà religiosa, in chiave di pressione e di polemica verso il Vaticano sul rinnovo dell'accordo con la Cina sulla libertà dei vescovi. Quindi ha questo sfondo la visita, ha gestito malissimo, devo dire, Pompeo, la preparazione della visita in Vaticano, al punto che Papa Francesco si è sfidato da ogni incontro con lui, e la polemica con il Vaticano è anzi salita di intensità. Per l'Italia ogni volta che il segretario di Stato americano arriva nel nostro paese è comunque un'occasione diplomatica rilevante. Come le dicevo, non è la prima visita, forse la prima e l'ultima sarebbe un problema. Certo. In realtà ce n'è stata un'altra importante nell'ottobre dell'anno scorso. Grazie mille a Marta Dassù, dirige Aspenia, la prestigiosa rivista, già sottosegretario, viceministro agli esteri. Grazie mille per aver meglio circostanziato questo importante avvenimento avvenuto praticamente 12 ore fa. Grazie mille Marta Dassù, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. Naturalmente nel nostro racconto non mancherà il profilo in 60 secondi di Mike Pence, l'altro aspirante candidato alla vicepresidenza. Adesso però piccola pausa, l'informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. A Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il giorno dopo il più caotico, infuocato e per alcuni imbarazzante dibattito presidenziale televisivo statunitense, siamo qui a provare a riassumerlo, e a provare di tirare un po' le fila di quello che si è detto, soprattutto di quello che non si è detto. L'ho trovato, lo ribadisco francamente, in molti passaggi vuoto proprio di contenuti. Un po' dei messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Un ascoltatore su Twitter: Trump non ha condannato i suprematisti bianchi, non ha detto che sosterrà una posizione pacifica il 3 novembre e non ha rispettato le regole concordate per il dibattito. Un altro, Giuseppe da Fiumicino, che scrive: Trump non accetta l'idea di perdere, temendo in caso di finire sotto inchiesta dal fisco senza alcuna prerogativa, tenterà il tutto per tutto a costo di bloccare le votazioni. E qualcun altro, devo dire la minoranza rispetto a questa fetta di ascoltatori, si limitano a scrivere viva Trump, oppure siete sempre uguali voi sinistri. Domanda interessante di un ascoltatore via SMS, e alla quale posso solo parzialmente rispondere, di questo chiedo in anticipo scusa. Ma se Trump prima ancora dell'inizio del suo mandato ha messo tutte le sue attività in un trust per evitare il conflitto di interessi, dov'è la sorpresa nello scoprire che non ha dichiarato redditi? I proventi delle sue attività avranno pagato le tasse tramite il suddetto trust e i compensi dei suoi amministratori o no? Così scrive un ascoltatore. Allora, qua c'è evidentemente un problema che parte dalle stesse dichiarazioni di Donald Trump, che ha dichiarato $750 per due anni e poi ha dichiarato di aver pagato milioni di dollari invece, e poi ha detto presto presenterò quelle dichiarazioni, ma ancora non l'ha fatto. E poi c'è quel conflitto di interessi che il suddetto trust avrebbe dovuto evitare, ma che non è stato evitato, perché nel momento in cui l'intero staff presidenziale, durante i vari giri di lavoro per gli Stati Uniti, va a soggiornare nella catena di hotel di proprietà di Donald Trump, è evidente che c'è un problema di opportunità politico. Allora, vi avevo promesso il profilo in 60 secondi di Mike Pence, sentite. Let us demand that educators around America teach evolution not as fact, but as theory. Ex governatore dell'Indiana ed esponente dell'America conservatrice e religiosa, Mike Pence è tra i volti più noti del movimento anti-abortista statunitense. Oltre a essere un fervente oppositore all'ampliamento dei diritti civili della comunità LGBTQ. Membro del Tea Party Movement, fronte interno repubblicano che chiede meno tasse e una riduzione della spesa federale, Pence si è descritto in questo modo. In ordine, sono prima cristiano, poi conservatore e infine sono repubblicano. Nella campagna elettorale del 2016, il vicepresidente uscente è stato capace di far convergere l'elettorato cristiano in favore di Donald Trump, confermandosi saldamente alla vicepresidenza dopo la vittoria. Oscurato dalla teatralità di Trump, Mike Pence è stato però protagonista dell'Ukraina Gate, scandalo che ha portato alla fallita richiesta di impeachment nei confronti del presidente, con due telefonate indirizzate al presidente ucraino Vladimir Zelensky. Nominato responsabile della task force della Casa Bianca in risposta al coronavirus, il vicepresidente ha subito forti critiche per la gestione della pandemia. Basteranno il suo conservatorismo e la difesa dei valori cristiani a convincere l'elettorato americano? O Mike sarà la prima vittima politica del Covid-19? E così abbiamo tratteggiato in un totale di 120 secondi quelli che sono i candidati alla vicepresidenza, che, lo ribadiamo, opinione del tutto personale, speriamo diano vita e vadano ad animare un dibattito un po' più corposo, un po' più politicamente di spessore di quello che invece rispetto a quello a cui abbiamo assistito invece alcune ore fa. 349-238-6666. Arrivano tanti messaggi, alcuni scrivono anche piuttosto, in maniera piuttosto irriverente: Biden sembrava pronto per l'ospizio. Qualcuno ci sfida dando del voi, voi sostenitori dei democratici, ma io francamente non sostengo i democratici, sono un osservatore di quello che sta accadendo e riporto quelle che sono le opinioni, oppure ospito opinioni di analisti e di persone che osservano e conoscono il mondo statunitense certamente meglio di me. Detto ciò, fra questi c'è anche un professore, un esperto di sicurezza nazionale. Lui si chiama Tom Nichols, segnatevi questo nome perché potrebbe andare in qualche modo a far pendere l'ago della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Lui è docente al Naval War College di Harvard ed è fondatore del Lincoln Project. Che cos'è il Lincoln Project? È un gruppo sostanzialmente di dissidenti repubblicani che non vedono di buon occhio la svolta che Donald Trump ha dato al partito stesso. Non rinnegano affatto le idee repubblicane e quell'approccio conservatore alla politica, ma sostengono che Donald Trump ha stravolto l'intero partito. Lui è autore del libro La conoscenza e i suoi nemici, tradotto in Italia dalle edizioni della Luis. In un recente articolo pubblicato sul The Atlantic, Thomas Nichols scrive: il partito repubblicano non merita di essere salvato. Perché un repubblicano non dovrebbe votare per Donald Trump tra un mese? Sentite che cosa dice Tom Nichols. Perché il partito repubblicano di oggi non capisce nulla che non sia Trump. Questa tendenza è parte del movimento populista che si sta facendo strada in varie nazioni, dove partiti che magari una volta si battevano per affermare idee e applicare politiche si sono trasformati nel veicolo adatto a uomini molto facoltosi per consolidare il loro potere politico. Sta succedendo anche qui, negli Stati Uniti. Ma se la guardiamo da un certo punto di vista, Donald Trump non è particolarmente conservatore né rappresenta alcuna delle posizioni per le quali il Partito Repubblicano si è battuto in passato. Ciò per cui Donald Trump si batte è il consolidamento del potere di Donald Trump e della sua famiglia. Questo non è un partito politico, è una setta incentrata sulla personalità di un solo individuo. È lo strumento nelle mani di un uomo solo al comando. Avete sentito la voce del professor Tom Nichols, insegna al Naval War College di Harvard, è un esperto di sicurezza nazionale ed è tra i fondatori del Lincoln Project, un gruppo di repubblicani che non si sente adeguatamente rappresentato da Donald Trump. 349-238-6666, se Biden si mette allo stesso livello di Trump, allora vuole regalargli la vittoria, scrive un ascoltatore. Se non ha uno stile suo, non ha senso votarlo, in quanto uguale a Trump. Però io ho un'impressione, gentili ascoltatrici e ascoltatori, e vorrei sentire la vostra anche su questo. Non è che ci stiamo affezionando troppo a questa spettacolarizzazione della politica, non è che stiamo dando per scontato che due candidati alla presidenza della più importante democrazia al mondo e della tra le principali potenze mondiali, insomma, ci accontentiamo di spettacolo, di scaramucce, di offese, del democratico che dà del clown al repubblicano, del repubblicano che non risponde. Forse non si dovrebbe parlare di contenuti? Di contenuti certamente parla Tom Nichols, lo ricordo, insegna al Naval War College di Harvard, lui è del Lincoln Project, non ve lo nascondo, l'abbiamo detto all'inizio, è contro Trump, ma è repubblicano, vuole sostanzialmente legittimare e dare voce a quella fetta di repubblicani che sono scontenti da questa gestione così personalistica. Una fetta di repubblicani ha votato Trump, testuali parole, per bonificare la palude, cioè per togliere potere a quei centri di potere appunto di Washington. Cosa è successo? Ce l'ha fatta questa sua lotta contro quello che viene chiamato molto spesso Deep State, i poteri occulti dell'amministrazione statunitense? Ha funzionato? Sentite cosa ne pensa il professor Nichols. Trovo tutto questo molto ironico, perché Trump ha rimpiazzato la palude con un'altra palude. Ha sostituito l'acqua sporca di Washington con l'acqua sporca di New York, rendendo tutto questo ancora più corrotto e più limaccioso di quanto non fosse prima della sua elezione. Il rispetto della legge, l'equilibrio tra poteri, la Costituzione, i requisiti fondamentali del funzionamento del governo, Trump ignora tutto questo. Quindi, se Trump ha fatto qualcosa, è stato rendere la palude ancora più profonda. La voce e il commento senza mezzi termini arriva da Tom Nichols, insegna al Naval War College di Harvard, una figura di spicco del cosiddetto Lincoln Project, aiutato a fondarlo, quei repubblicani che non vedono Trump di buon occhio. E il loro voto dove potrebbe andare il 3 novembre? Chissà. Intanto noi andiamo sicuramente sulle strade italiane e poi pronti per aprire l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Un po' di messaggi che arrivano al 349-238-6666. Marco da Ferrara, che credo con ironia dice: sinceramente non me ne frega nulla di Biden e Trump. Mi permetto sommessamente di dire che compie un grandissimo errore Marco da Ferrara. Stiamo parlando di uno dei paesi tuttora tra i più importanti al mondo, con i quali abbiamo relazioni militari, diplomatiche, economiche molto molto forti. Mike Pompeo in queste ore è a Roma, la politica americana influenza quella europea e italiana, e quindi io credo che un occhio su quello che accade oltreoceano sia doveroso per capire meglio anche cosa accadrà nei prossimi mesi, magari in Italia. Penso su tutta la questione del 5G, sul quale Mike Pompeo si è espresso in maniera molto molto decisa. Un altro ascoltatore al 349-238-6666: cosa accadrà se Trump non riconosce il risultato elettorale? È proprio la domanda che Antonio Talia ha fatto a Tom Nichols. Sentite che cosa dice. È possibile che gli Stati Uniti attraversino molte settimane di forti tumulti, sia nei tribunali che per le strade, se il presidente non dovesse accettare un eventuale risultato sfavorevole delle elezioni. Spero che ciò non succeda. E non c'è dubbio, al di là di questo auspicio che ovviamente noi tutti abbracciamo per i cittadini statunitensi, per quella democrazia statunitense, il cui decoro ieri è stato leggermente scalfito, per usare un eufemismo, da quei 96 minuti in cui i due candidati non si sono risparmiati botta e risposta. Certo, Joe Biden molto molto pallido, questo va assolutamente detto, e credo che la maggior parte degli analisti concordi su questa analisi. Interessante invece un ascoltatore che in qualche modo crea un cortocircuito, perché sostiene che il professore Tom Nichols di Harvard faccia parte del Deep State. Trump i contenuti li ha dati, mantenendo in maniera maniacale le promesse del 2016. Così scrive un ascoltatore, che però io prego di portare delle prove, perché l'accusa è piuttosto grave. Stiamo parlando di un professore di Harvard, non certo un membro dell'amministrazione statunitense che Donald Trump voleva combattere. Allora, Tom Nichols, dati i suoi studi sulla sicurezza nazionale, ha tra le aree di studio la Russia. In particolare ha insegnato affari russi e sovietici al Dartmouth College e all'intelligence degli Stati Uniti. C'è un legame tra Donald Trump e Vladimir Putin? Così mi rallaccio un po' di domande che arrivano dagli ascoltatori, che chiedono di sostanziare e sottolineare meglio quelle che potrebbero essere le reazioni di Putin di fronte alla gara presidenziale. Sentite cosa dice. È evidente che Trump ammira Putin perché vorrebbe governare come Putin. Ma ritengo anche che ci siano molti panni sporchi nascosti tra il presidente e il governo russo, perché il presidente ha intrattenuto per 30 anni affari immobiliari con gli oligarchi russi e ha avuto accesso a capitali russi. È molto difficile fare affari di questo genere con la Russia e non avere molti segreti. Segreti che preferiresti rimanessero nascosti. Questo è il professor Nichols da Harvard. Gli ascoltatori: Trump non interrompeva mai Biden che si addormentava, vai Donald. Così Giacomo, che si firma Giacomo, agricoltore bergamasco. Non è esattamente così. Tra le 56 e le 73 interruzioni, però credo che lei abbia visto il dibattito televisivo, abbia letto dei resoconti, no? Prima di intervenire in maniera così perentoria. C'è qualcuno, è più di uno, voi ascoltatori, che lamenta la vacuità del dibattito e questa andare a sfibrare i contenuti e quelle che dovrebbero essere l'istanza invece di una grande democrazia come quella statunitense. Perché Trump, scrive un altro ascoltatore, non dovrebbe accettare il risultato delle elezioni, così Matteo, perché lo ha detto lui, ha detto che teme frodi elettorali, ha detto che non si fida del voto per posta e ha detto che ha chiesto ai suoi elettori di andare a controllare nei seggi che tutto si svolga regolarmente. Questo, secondo molti, è una stilettata proprio ai principi, alla prassi, alle procedure democratiche statunitensi. Torniamo alla voce di Tom Nichols, lo ripeto, è un dissidente repubblicano, lui tra i fondatori del Lincoln Project. Sono quei repubblicani che, pur abbracciando la causa del partito conservatore, non si sentono adeguatamente rappresentati da Donald Trump. A lui, da Antonio Tale, ha chiesto quali sono i suggerimenti per cambiare il partito repubblicano. Sentite. L'unico modo per riformare il partito repubblicano è una sconfitta completa del partito repubblicano, dalla base fino al vertice. L'unica via con cui un partito impara la lezione è la sconfitta alle urne elettorali. Se questo succederà, il Partito Repubblicano potrebbe finalmente liberarsi delle persone che hanno condotto Trump al vertice e persone più giovani potrebbero occupare posizioni di leadership nel partito. Queste persone, che non avrebbero osato candidarsi sotto Trump, potrebbero finalmente presentarsi alle elezioni. Questa mi pare l'unica speranza, una massiccia sconfitta dei repubblicani a novembre. Intanto arrivano i commenti e i contributi degli ascoltatori via SMS. Un ascoltatore: ho due figli e nipoti in America, Denver e Phoenix. Sono democratici, ma mi dicono che Biden è troppo vecchio, un po' malato e non molto preparato. Così mi dicono. Buona serata. Così un ascoltatore crea in qualche modo un filo virtuale tra Viale Monterosa, Milano, e Denver e Phoenix. Un altro ascoltatore invece: buongiorno, bisogna dire che comunque Trump, prima dell'arrivo del Covid, ha creato un sacco di posti di lavoro, ha fortificato l'economia americana e, rilanciandola poi con l'arrivo del Covid, si è trovato ingabbiato nelle problematiche che tutto il mondo in questo momento sta vivendo. Ma non c'è dubbio, l'abbiamo spesso ribadito, come l'economia assolutamente andasse a gonfie vele. Peraltro, e questa è un po' una mazzata, sono arrivati gli ultimissimi dati che adesso, se riesco, nell'ultimo minuto e mezzo vado a ritrovare sulla disoccupazione americana, che non sono affatto confortanti. Ma l'abbiamo sempre detto, l'economia americana sotto l'amministrazione Trump andava bene, su questo non ci piove. L'ultimo punto che forse riusciamo a toccare riguarda questo libro scritto da Tom Nichols, è La morte della competenza. Sostanzialmente si va a studiare quello che è e analizzare quella che è la sfiducia e l'andare a delegittimare quella che è la scienza, la competenza, lo studio, l'aver magari dedicato 10, 15, 20 anni, 30 anni a un tema. A un certo punto la politica sembra disinnamorarsi degli studiosi, degli scienziati, degli esperti. La qualcosa potrebbe aver portato alla morte delle competenze anche negli Stati Uniti. Sentite cosa dice Tom Nichols. Penso che lo stiamo vivendo direttamente proprio in questo momento. Il presidente è in guerra con gli esperti perché gli esperti gli dicono cose che lui non vuole sentirsi dire. Quando l'unica cosa di cui ti importa è la tua sopravvivenza politica, non vuoi ascoltare gli esperti, perché gli esperti tendono a non avere un punto di vista politico. Per loro è solo una questione di scienza e logica. Ma il presidente non vuole ascoltare nulla di tutto ciò, ed è uno schema che si ripropone ovunque. Gli esperti dicono cose che il pubblico non vuole sentire perché si tratta di temi che spesso non sono politicamente seducenti. Qui in America stiamo pagando il prezzo di non voler ascoltare gli esperti proprio adesso. Abbiamo già oltre 200.000 morti e il presidente è la fonte principale di questo dubbio verso gli esperti, perché è quello che fa in pubblico ogni giorno. Potete vedere benissimo i danni che stiamo subendo a causa di tutto ciò. Questa è la voce di Tom Nichols da Harvard e adesso un'altra voce che sono sicuro riconoscerete. You're fired. You're fired. You're fired. E per oggi siamo fuori, per oggi si chiude così. Grazie mille a tutta la squadra, a tutti voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.